Alimenta è una no profit che dal 2021 su tutto il territorio nazionale si occupa di disturbi del comportamento alimentare, una malattia psichiatrica che oggi riguarda più di 4 milioni di italiani. Alimenta, come racconta un po' il suo claim che trovate dal sito ai profili social, è raccontare per sensibilizzare, perché Alimenta nasce dalle storie, con l'obiettivo di riscrivere quella che è la narrazione intorno ai disturbi del comportamento alimentare per abbattere sia lo stigma sociale che i falsi miti che purtroppo ancora oggi caratterizzano queste malattie. Il nostro obiettivo è anche quello di far sì che le cure e il supporto possa essere quanto più accessibile possibile in tutta Italia. Infatti Alimenta segue la famiglia e il paziente sia dal momento prima della malattia al durante a tutto il momento di riabilitazione, facendo anche attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole. Aprire il primo punto d'ascolto a Bologna insieme appunto a Alimenta a Bologna è stato per noi un traguardo importante, che però segna sicuramente un nuovo punto d'inizio con una forte attività in presenza. Alimenta Bologna nasce da pochissimo, inauguriamo oggi ufficialmente. Nasce dall'esigenza riscontrata anche rispetto a delle peculiarità demografiche del nostro territorio, a un'analisi sociale delle caratteristiche di Bologna, di attivazione civica rispetto al tema dei disturbi del comportamento alimentare, ad affiancare il lavoro dei servizi clinici. Questo aiuta in termini di sensibilizzazione, aiuta in termini di prevenzione e di supporto alle cure durante e in uscita dai percorsi di cura. Questo anche per innescare chiaramente nei cittadini una capacità di affiancare, di dialogare, di stare in relazione con chi soffre di questa malattia. Apriremo da martedì un punto d'ascolto negli spazi del Laboratorio Salute Popolare del Municipio Sociale Labà. Apriremo tutti i martedì dalle 16 alle 19, con l'obiettivo di riuscire man mano ad aprire altri giorni per rendere l'accesso sempre più facilitato. Questo punto d'ascolto si pone l'obiettivo appunto di orientare alle cure e affiancare chi soffre di disturbi del comportamento alimentare, ma anche chi è accanto a chi soffre di disturbi del comportamento alimentare, in termini di orientamento alle cure, in termini di costruzione di uno spazio di comunità sicuro e con un taglio di narrazione anche della malattia ben preciso, che riporta appunto tutta la sensibilità della mission di Alimenta nazionale. Porteremo avanti anche altre progettualità in termini di lavoro di comunità e appunto percorsi invece di formazione, sempre in un'ottica di sensibilizzazione e di collaborazione con una rete. Passaggio importante: Alimenta non si sostituisce a un percorso di cura, ma affianca. Quindi, come dicevi prima in conferenza stampa, le persone allo sportello sono volontari formate appunto non per sostituirsi al percorso di cura, ma ovviamente per... Esatto, in un'ottica appunto di obiettivi diversi e di necessità diverse a cui rispondere, la scelta è di far attivare più persone possibile, anche per sensibilizzare in primis chi fa attività al punto d'ascolto. La scelta quindi è di non avere delle professionalità ricercate al nostro interno, poi ovviamente in termini di competenze personali ognuno ne ha differenti e questa è una ricchezza, ma non sono ricercate come titoli professionali, proprio perché invece è il lavoro di ascolto, di relazione anche paritario, che facilita rispetto come punto d'accesso diretto rispetto a quello con i servizi spesso.